Storiacce di Raffaella Calandra. La catapte Nana, da un mese e mezzo prima di questo fatto, lui vedeva delle cose strane, come una macchina seguiva lui, ho messo una camera lì per controllarlo, per sentire cosa parlava la moschea, ha visto delle persone che fanno un movimento un po' strano dietro di lui. Il giorno in cui fu rapito, sentì delle persone che parlavano italiano, quante persone potevano essere? La persona che l'ha fermato per chiedere i documenti, che parlava italiano. Poi, dopodiché, una volta rapito, non ha più sentito niente né inglese né italiano. Lui non sapeva niente. Questa è una storia di spie, di terrorismo internazionale e di coperture politiche, ma pure una storia di rapimenti, torture e segreti di Stato diventata un affare internazionale. Ma questa è pure la storia di una condanna per l'Italia dalla Corte Europea di Strasburgo. Questa è la storia di Abu Omar, di un'operazione targata CIA e Sismi che ora incrocia però pure le indagini sul delitto di Giulio Regeni, perché proprio in Egitto fu portato e imprigionato l'ex imam di Milano, nello stesso paese dove ora, invano, la nostra intelligence sta cercando di fare chiarezza sulla morte di un ricercatore. Parte da Milano e arriva dunque fino al Cairo questa puntata di Storiacce. 007, licenza di rapire? Noi stiamo vivendo una situazione veramente estremamente spiacevole. Noi pretendiamo dal governo egiziano di avere quella chiarezza che noi non abbiamo avuto per l'omicidio, per la morte di Giulio Regeni. E questo è molto grave. C'è un sotterraneo filo, come nota Ferdinando Pomarici, storico magistrato milanese, che unisce le vicende di Abu Omar e di Giulio Regeni, anche se a 13 anni di distanza. Ed è un filo intessuto in questa storia di barbe finte, depistaggi e muri di silenzio tra Roma, Milano e il Cairo, dove Regeni è stato torturato ed ucciso un mese fa. Nello stesso paese dove pure Abu Omar, cittadino egiziano, fu imprigionato e torturato. Ed è per questo che ora che Strasburgo ha condannato l'Italia per abuso di segreto di Stato, è ora che Pomare ci sollecita un cambio di rotta al nostro governo. Abu Omar, cittadino egiziano, è stato sequestrato, privato dei suoi più elementari diritti, deportato in Egitto, torturato, e il governo italiano ha coperto in ogni modo gli autori di quel fatto. Certo, non questo governo di oggi. Io mi aspetterei che il governo di oggi, se vuole essere autorevole agli occhi di Al-Sisi, faccia luce e elimini il segreto di Stato. Non si può pretendere da altri di avere una condotta diversa da quella che si è tenuta e si continua a mantenere. Al governo egiziano l'Italia chiede collaborazione vera nelle indagini sulla morte di Giulio Regeni, ma per ora ha ottenuto invece solo ipotesi fantasiose o riduttive insieme a depistaggi. Quello che di sicuro si sa è che Regeni è stato torturato ed ucciso, come molte, troppe volte succede laggiù, e come successe 13 anni fa, ma senza essere ammazzato, anche ad Abu Omar, imam radicale, già indagato dalla Procura di Milano in una operazione sul terrorismo internazionale e per questo poi condannato a 6 anni. Ma prima era stato vittima di un extraordinary rendition, uno dei rapimenti, cioè che senza mezzi termini e in sfregio a tutte le leggi, la CIA faceva con personaggi sospetti, ma con l'avallo anche delle forze politiche italiane. La domanda è questa. Di sicuro quel 17 febbraio 2003, in via Guerzoni, a Milano, c'era almeno un italiano a rapire Abu Omar, come ci raccontò lui stesso. La persona che l'ha fermato, che parlava italiano. Poi, dopodiché, una volta rapito, non ha più sentito niente, né inglese né italiano. Lui non sapeva niente. Durante gli interrogatori, cos'era l'argomento principale che gli chiedevano? hanno chiesto che faceva come attività, che conosceva a Milano, come faceva la moschea. Da queste cose qua volevano scoprire delle cose che loro non sapevano, invece lui non aveva niente da scondere, come diceva lui. Perché non c'è mai مشاكل اطلاقا ولا اي قضايا عليا اطلاقا. Furono interrogatori feroci a suo dire e non mancarono le torture crudeli da lui più volte denunciate. Dei giorni della sua prigionia Abu Omar racconta anche di essere riuscito ad evitare numerosi altri sequestri di islamici, come quelli avvenuti in diversi paesi di Europa, stando all'inchiesta del parlamentare europeo Dick Martin sulle prigioni della CIA. In carcere ho incontrato la maggior parte di coloro che sono stati rapiti da tutte le parti del mondo. Nel periodo tra il 20 aprile e il 13 maggio 2004 sono stato trasportato in uno degli uffici più grandi delle forze di sicurezza egiziane al Cairo, racconta ancora Abu Omar, che nel suo memoriale ci descrive la sua prigionia. Avevo le mani e i piedi legati, ma la benda sugli occhi non era così stretta, si legge. Mi hanno introdotto in una stanza dove ho parlato con un alto ufficiale. Ripercorre le fasi del suo sequestro Abu Omar, come abbiamo sentito dalla sua stessa voce, ma in questo memoriale svela anche inquietanti retroscena su presunte oscure manovre dei servizi segreti, a cominciare da quelli egiziani. Le autorità di sicurezza egiziana mi hanno proposto $10,000 e un lavoro da imprenditore in cambio della rinuncia alla mia difesa nel processo in Italia. Ma questo non sarebbe l'unico tentativo di avvicinamento, diciamo così, nei confronti dell'ex imam rapito dalla CIA. Come lui stesso ora ci rivela, proprio i servizi segreti americani gli avrebbero fatto arrivare un'allettante proposta, soldi e tutela per il futuro, in cambio, ancora una volta, di una totale marcia indietro rispetto alle sue denunce. أبو عمر الله يكرمك مين بالضبط كانوا أمريكان ولا كانوا لا هو العمل ده تم في السجن اللي أنا كنت فيه في سجن سيبال تورا يعني ترامتي persone lui non vuole dire anche nome e cognome perché per lui persone importanti nella parte egiziana sì. Hanno ottenuto questa trattativa di darlo $2,000,000 più la cittadinanza americana sia per lui sia per la famiglia in cambio? Lui ritira completamente qualunque denuncia. Lui ha detto davanti al mio avvocato, davanti anche alla giustizia italiana. Loro hanno rifiutato questo, loro hanno detto sotto tavolo, cioè per cui nessuno che sa questa storia qua. Lui con le scene teme metà la presa, hanno fatto che. Ma il ruolo degli italiani, dei vertici del SISMI ed eventualmente dell'autorità politica che avallò quel rapimento è rimasto sempre fuori da ogni verità giudiziaria, perché i processi in questi anni si sono infranti contro il segreto di Stato, opposto da 4 diversi governi di diverso colore politico, come la Corte dei diritti dell'uomo non ha mancato di condannare nella sua sentenza. E dire che quel rapimento fu un duplice danno per l'Italia, perché rese introvabili gli altri componenti di una cellula di presunti terroristi islamici su cui la Procura di Milano stava indagando, con Armando Spataro, oggi procuratore capo a Torino, e Ferdinando Pomarici. Quel sequestro è stato dannosissimo perché ha impedito a noi di individuare e eliminare tutta la cellula terroristica. Lì hanno semplicemente preso Abu Omar e tutti quelli che lavoravano con lui ovviamente sono rimasti sconosciuti e impuniti. E allo stesso tempo, se non fosse stato opposto e ripetutamente opposto il segreto di Stato in questi anni, i processi avrebbero avuto altra conclusione. Beh, sicuramente sì, non si sarebbero limitati a aggiungere alla condanna puramente teorica degli agenti della CIA nei cui confronti i vari governi non hanno mai voluto inoltrare la richiesta di arresto agli Stati Uniti d'America. Già alcuni sono stati graziati senza avere espiato neanche un giorno di carcere. Questa possiamo dire è un po' una sorta di vostra vittoria, questa sentenza. Armando ed io abbiamo sopportato in silenzio trattamenti difficilmente sopportabili. inaccettabili e non conosciuti. Noi due che della lotta al terrorismo abbiamo fatto metà della nostra attività professionale, siamo stati accusati di proteggere un terrorista. Noi siamo stati ostacolati in ogni modo dal potere politico che ha apposto un segreto di Stato allo scopo unico ed evidente di impedire che si accertasse la verità nei confronti del direttore del SISMI e di altri dirigenti di elevato livello e chissà, penso io, forse anche di autorità politiche che quella iniziativa di Pollari avevano avallato, come si può desumere dalle stesse mezze frasi di Pollari, il quale il giorno stesso in cui fu rinviato a giudizio disse: attenzione, non si pensi che se cado io cado da solo, deciderò di parlare e di dire tutto quello che è successo. Alla stessa politica che ha ripetutamente opposto il segreto di Stato in questi 13 anni ha sempre fatto riferimento anche l'ex potente capo dei servizi segreti militari, condannato e poi prosciolto in modo definitivo dalle accuse per il caso Abu Omar, ossia Nicolò Pollari, che già a storiacce disse: la mia difesa è nelle mani della politica. E io cosa c'entro? Qui non dei vaghi testimoni, ma tre presidenti del Consiglio dei Ministri dicono tutti la stessa cosa, e cioè che esiste il segreto di Stato su determinate situazioni che esulano dalla mia disponibilità. Ma qui c'è un problema di competenza politica e di valutazione giuridico-politica dei fatti. È molto comodo venire da me semplicemente perché io asseritamente sarei la parte più debole. Lei pensa che il governo egiziano, dove per esempio questo signore stava portando, non sappia chi si è occupato di questa vicenda, visto che l'ha ospitato? Penso di sì, no? Certo. Sarebbe chiedere. Per caso hai avuto qualche collaborazione diretta o indiretta? Io non c'entro niente con questa cosa, ma non c'entro niente non solo perché non l'ho fatto, perché la mia storia, e non è una storia breve, è una storia di decenza. Ho anche aggiunto che con la stessa tenacia con cui io, a mio danno, mi ostino a rispettare la legge opponendo il segreto di Stato, avrei rifiutato ad un ordine. E di questo, come ho detto sempre, mi sono assunto ogni responsabilità. Nella seconda parte di Storiacce andiamo anche in Egitto, dove la vicenda di Abu Omar e la morte di Giulio Regeni si sono incrociati in questa storia di barbe finte e di intrighi internazionali. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Storiacce. Questo segreto deve essere una forma estrema di tutela di interessi di sicurezza nazionale e non una cortesia garantita ad amici e alleati per coprire magagne e peccati altrui. È questo quello che invece è successo in Italia? Il segreto di Stato, come ritiene Claudio Fava, vicepresidente della Commissione Antimafia, è stato opposto da tutti i governi degli ultimi 13 anni come scambio di favori con l'intelligence americana. I nostri servizi segreti, pur dietro lo schermo del segreto di Stato voluto dalla politica, hanno in realtà sempre negato ogni coinvolgimento. Ma seppure davvero fosse così, significa che quindi 007 di altri paesi possono venire qui da noi, rapire una persona, nello specifico un cittadino egiziano, per di più oggetto di un'inchiesta della Procura di Milano, e in spregio ad ogni nostra legge e a ogni nostro diritto portarlo via, torturarlo e poi rilasciarlo, e farlo dopo offerte di patti indicibili, come avete sentito nella prima parte di Storiacce? Gli 007 hanno da noi licenza di rapire? È tutto questo che la Corte di Strasburgo contesta all'Italia sulla gestione del caso Abu Omar, vittima di extraordinary rendition da parte della CIA nel 2003. Un punto questo cruciale perché ne va di mezzo la nostra stessa storia, perché smentisce la storia stessa dell'Italia, come ricorda Ferdinando Pomarici, magistrato del caso Abu Omar, con alle spalle una lunga storia di antiterrorismo, proprio come Armando Spataro. Noi due che della lotta al terrorismo abbiamo fatto metà della nostra attività professionale, siamo stati accusati dai soliti noti politici di proteggere un terrorista. Tra l'altro quello stesso terrorista che noi abbiamo messo sotto indagini e fatto condannare a 6 anni di reclusione, se questo significa proteggere. Certo, lo stesso Abu Omar. Esatto. Noi ci siamo trovati coinvolti nel periodo peggiore del terrorismo, il terrorismo della fine anni 70, inizio anni 80. Sono stati uccisi i nostri amici prima ancora che colleghi. Eppure noi in quegli anni abbiamo condotto tutte le nostre indagini, e sono state tantissime, rispettando alla lettera tutti i diritti dei brigatisti e di tutti gli altri appartenenti o affiliati alle organizzazioni eversive. Non c'è stato nessuno che mai abbia detto la Procura di Milano, ma in genere la magistratura italiana ci ha privato dei nostri diritti elementari. Che cosa è possibile dire di che cosa stava avvenendo in quegli anni, subito dopo l'11 settembre, in Italia e in un pezzo di Europa? C'erano, come dire, operazioni sotto copertura? Ora, io sono perfettamente concorde sulla necessità di prevenire al massimo e comunque poi di punire gli autori di fatti di quel genere. Però ritengo che se uno Stato liberamente si dà delle leggi, si dà una Costituzione, lui stesso per primo le deve rispettare. Non può poi violarle in nome di pericoli eventuali e futuri, perché è una legge che si è dato lo Stato, la collettività. Se lo Stato, la collettività, noi tutti riteniamo che le condotte debbano essere portate avanti secondo quelle regole, non possiamo essere noi per primi a violare quelle regole. Rimane l'amarezza perché noi Italia, che siamo stati sempre la culla del diritto e del rispetto dei diritti umani, ci troviamo schiaffeggiati brutalmente perché è dovuta arrivare una corte a Bruxelles, a Strasburgo, a dirci ehi, a batterci col righello sulle dita, bambino, queste cose non si fanno. Ehi, questo non si fa, dice Strasburgo all'Italia. Come nota Ferdinando Pomarici, a quella stessa Italia che fa giustamente la voce grossa con l'Egitto, da cui ora pretende verità vera e non di comodo sulla morte di Giulio Regeni, giovane ricercatore torturato e ammazzato da professionisti della tortura e delle sevizie, dicono i magistrati di Roma. E questo è uno dei pochi punti fermi di questa storia, che l'Egitto fino ad ora invece volta per volta ha cercato di far passare come incidente stradale, storia di droga, di omosessualità o di vendetta personale. Ed è per questo che ora l'Italia chiede verità per Giulio, come hanno ripetuto in tanti ad un mese dalla sua scomparsa davanti all'ambasciata egiziana insieme a Niccardo Nuri di Amnesty International. Giulio è diventato una vicenda, una storia umana che a cui l'Italia si è affezionata e non mollerà l'osso fino a quando non sarà ottenuta giustizia e verità autentiche, ufficiali. La tortura in Egitto è un fatto diffuso, ci sono centinaia di vittime di tortura ogni anno, quindi per loro ha ancora più un senso di urgenza che ci sia un caso in cui il governo egiziano è costretto a dire parole chiare su una violazione dei diritti umani che lo chiama in causa. In queste ore si stanno anche un po' rincorrendo ipotesi varie, le più disparate. Il messaggio della famiglia intanto è quello di porre fine a questa ridda di illazioni. Questo naturalmente chiama in causa le autorità egiziane, perché le ipotesi fatte in questi 30 giorni dalla scomparsa di Giulio sono alcune fantasiose, altre persino offensive, altre tendenti a ridimensionare tutto come se fosse un mero fatto di cronaca nera. E poi l'altra esigenza della famiglia di Giulio è che il suo nome non sia infangato, cioè che non diventi un altro degli italiani che tra virgolette se la sono andati a cercare. È una storia lunga, da Ezio Baldoni alle due Simone, Giuliana Sgrena, Sonia e Vanessa, Greta e Vanessa. Ecco, Giulio Regeni non può aggiungersi a questo elenco di persone la cui memoria è stata infangata da accuse di essersi andate a cercare, avventurismo, sprovvedutezza, eccetera. L'Egitto, dove torture e scomparse soprattutto di attivisti si ripetono di continuo. Sono infatti centinaia i nomi di desaparecidos che le organizzazioni come Human Watch ricordano. In questo paese tra le cose più pericolose è proprio fare ricerca sui temi del lavoro, proprio come faceva Giulio Regeni. Però nella sua storia, comunque anche in un contesto del genere, c'è più di qualcosa che non torna, perché come ammette un suo professore, Khaled Fanni, professore dell'Università Americana del Cairo con cui Giulio collaborava, non era così comune che uno studente fosse seguito. Giulio, dunque, è stato tradito da qualcuno? Ipotesi probabile, secondo il professore che abbiamo intervistato. Le forze di sicurezza egiziane sono particolarmente sensibili sui temi del lavoro, dei sindacati e degli attivisti. C'è il sospetto che lui fosse seguito, e questo non è frequente anche per chi si occupa di lavoro, il tema più delicato. Ci potrebbe essere l'ipotesi che qualcuno abbia informato i servizi segreti proprio su di lui e sul suo lavoro, o che questa è parte di una storia più grande che noi non conosciamo. Le forze di sicurezza egiziane potrebbero aver considerato tutto il suo lavoro come materiale per intelligence straniere. Dal punto di vista delle forze di sicurezza egiziane, perché uno straniero dovrebbe occuparsi di lavoro? Solo perché è una spia, e quindi per raccogliere materiale per altri al fine di destabilizzare la stabilità del regime in Egitto. For the purposes of undermining the stability of the regime in Egypt. Qui dunque, in Egitto, in questo paese amico, si incrociano due terribili storiacce italiane, molto diverse, ma entrambe storie di spie, di silenzi e di coperture, storie di barbe finte, di servizi segreti, di operazioni di spionaggio e di controspionaggio. E di tutto questo è piena, ahimè, pure la storia antica e quella del mito. Linea allora, come sempre, a questo punto alle nostre mitiche storiacce e a Giorgio Geranò, professore all'Università di Trento e autore per Sonzogno di saggi sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. I primi a spiarsi fra loro furono i greci e i troiani. E Omero nell'Odissea a raccontarci la missione spionistica di Ulisse. L'eroe greco si era travestito da mendicante, si era coperto di stracci, si era pure ferito da solo per risultare più credibile. Così conciato si era infiltrato nella città di Troia. Nessuno lo aveva riconosciuto. Solo Elena aveva capito chi era, ma lo aveva lasciato andare. E Ulisse era tornato nel campo greco, racconta Omero, portando molte notizie. Insomma, quello della spia forse non è il mestiere più antico del mondo, ma di sicuro è uno dei più antichi. Tanto che un grande storico, Chester Starr, anni fa scrisse un libretto intitolato Lo spionaggio politico, Political Intelligence, nella Grecia classica. In Italia lo ha tradotto Sellerio e forse lo si trova ancora da qualche parte. Chiunque viaggiasse per lavoro poteva essere usato per raccogliere informazioni su potenze straniere. I mercanti innanzitutto, ma anche gli attori o i poeti. Nell'interesse del proprio paese si agiva senza scrupoli. Sempre Ulisse, secondo Omero, intercettò una volta una spia troiana, Dolone, che cercava di infiltrarsi nel campo greco. Il povero Dolone fu sequestrato e messo sotto torchio. Ulisse gli estorse tutte le notizie possibili. Il troiano credeva di salvarsi la vita, ma Ulisse lo raggelò. Sì, ci hai dato notizie preziose, però se ti lasciassi vivere potresti tornare a spiarci. Dette queste parole, e sono versi autentici di Omero, Ulisse sgozzò la spia. E voi che idea vi siete fatti del caso Regeni? Secondo voi come si sta comportando il nostro governo con l'Egitto e poi ancora della vicenda Buomar? Tutto lecito secondo voi, anche la licenza di rapire, se è in corso un'operazione antiterrorismo? Se vi va, scriveteci come la pensate sulla pagina Facebook di Storiacce, oppure ci trovate anche sul blog Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it nella pagina di Storiacce. Ciao a tutti, a presto!